Linee d'ombra di Matteo Caccia. Posso dire, forse anche un po' vergognandomene, vivo una vita molto felice, sono molto felice, ho a che fare con tanta bella gente, ho una moglie meravigliosa, una figlia splendida. A ripensarci oggi, il gesto di quella mia zia è stato come un battito d'ali di una farfalla a Roma che ha creato un uragano qui da me, in Germania. Storie di soldi regalati e di eredità non desiderate in una puntata che si intitola Da qui all'eredità. Sono cotti, papà? Ugo. Ci siamo quasi. Ugo! Devi essere forte. Ti devo dare una notizia terribile. No! Sì? Ho invitato qualcuno a cena. No. È ritornata Rebecca da Betania e mi ha portato la notizia. Che è successo? Tuo zio è morto. No. Sì. No. Sì. No. Sì. Sì, è morto zio. Siamo ricchi. Sono l'unica erede. Sono l'unica erede. Via questa casa schifosa. La brucio. Chi se ne frega, cambiamo la casa. Via questo cibo di merda. Vi manderò a bistecche per tutta la vita. E poi troveremo un bel marito per Marianne. Forse un cacciatore di doti. Sì. Comunque è morto lo zio Lazzaro. Sarà ricco. È morto lo zio Lazzaro. Sì, è morta. Era tantissimo tempo che aspettavo questa possibilità, cioè quella di mettere un Paolo Villaggio dannata e di qualità altissima. Questo è un estratto da Super Fantozzi, l'episodio della saga di Fantozzi in cui Fantozzi percorre praticamente tutto l'arco del pianeta Terra dalla preistoria ad oggi, e a un certo punto si trova, anche con la sua solita fortuna, si trova ad essere un parente che eredita tutto dallo zio Lazzaro. Lazzaro ovviamente è il morto che viene resuscitato nel miracolo di Lazzaro, alzati e cammina, raccontato dalla Bibbia, in cui appunto Gesù Cristo resuscita il povero Lazzaro. Lui era il nipote, aveva già distrutto tutta la sua casa, convinto di poter ereditare tutto dallo zio Lazzaro, invece non può. Usiamo Fantozzi e usiamo Paolo Villaggio perché la puntata di oggi si intitola Da qui all'eredità. Linee d'ombra è un programma che vi racconta storie, che vi racconta storie di confine, storie che hanno una linea nel mezzo che è stata varcata, oppure no, può anche non essere stata varcata, però è una linea che ha delimitato una realtà e un tempo. Ecco, se avete voglia di condividere con noi una storia che ha in mezzo un pezzo, un confine dirimente, lineedombra@radio24.it, noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata e ci facciamo anche un'intera stagione, la prossima, perché di fatto con le storie che ci sono arrivate al momento siamo praticamente a posto. Il programma dura in originale fino al 24 di luglio, poi vanno una sorta di meglio di per tutta l'estate, poi ci ritroviamo a settembre con delle nuove storie originali, quindi continuate a mandarcele, faremo una grande raccolta per tutta l'estate. lineedombra@radio24.it, quando magari avete un pochettino più di tempo a disposizione per scrivercela e per mandarcela. Quindi vi raccontiamo storie di eredità. La prima è una storia che ci arriva dalla Germania, di un italiano che vive in Germania, che a un certo punto ha una piccola eredità, nulla di stravolgente, però quella piccola eredità gli permette di dare una svolta radicale alla sua vita, che era su dei binari che insomma da una parte erano morti e dall'altra erano molto spiacevoli, insomma erano binari che non lo portavano da nessuna parte. La seconda storia invece è una storia che arriva dall'inizio del secolo scorso, è un italiano che non si trova in Germania ma si trova in Russia, e lì in Russia in parte è prigioniero, in parte no, è un militare e riesce comunque a vivere una vita che sembra davvero uscita da Chekhov, di agi, di incontri di uomini e di donne soprattutto, e c'è un'ereditiera in ballo e c'è anche una giovane donna che si innamora di lui, a cui lui evidentemente non vuole lasciare alcuna eredità, e vi racconteremo la storia più tardi. Questa storia invece arriva dall'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, che è, ricordiamolo ogni tanto, che è questo luogo nel cuore dell'Aretino in Toscana, dove da quasi 40 anni si raccolgono i diari degli italiani, che sia il vostro, che sia quello di un vostro parente, che sia un diario trovato in un cassetto di una casa casa dove vi siete trasferiti, se avete voglia di regalare a questo paese una memoria storica basata sui diari, ecco, potete spedirla oppure portarlo in questo luogo, Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo, dalle parti di, se non ricordo più, Mercato Saraceno, se non ricordo più, sulle 45, ma vabbè, insomma, lasciamo perdere, mettete sul navigatore e trovate tutto. E poi chiudiamo la puntata di oggi con la nostra storia seriale, la storia di Antonina Zoti e della sua infanzia complicatissima per via di un padre che viene ucciso dalla mafia poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946. Lei cresce orfana di padre, ma soprattutto con un'onta, quello di essere la figlia di un morto ammazzato. Solo anni dopo ne uscirà con un racconto pubblico dal quale dirà: noi non siamo colpevoli, noi siamo le vittime. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla prima storia. Mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. Mi chiamo Silvio, sono di Roma e vivo a Colonia, in Germania, già dal 1992, dove mi sono trasferito con la allora mia ragazza e poi moglie, anch'essa romana, con cui avevamo deciso, sposandoci, di cambiare completamente vita, lasciando tutto e ricominciando da qualche parte all'estero. Inizialmente si era profilata una possibilità in Africa, che poi per fortuna non si è concretizzata. E alla fine siamo approdati qui, in Germania, dove io avevo mio padre, con il quale, a dirla tutta, non c'erano poi dei rapporti così stretti, ma che volevo assolutamente instaurare e costruire un futuro anche insieme a lui. Appena arrivato, ci offre un appartamento di sua proprietà dove vivere, secondo il concetto «tanto non avete bisogno di possedere niente, perché ci sono io e penso a tutto». Mio padre aveva una piccola azienda commerciale qui a Colonia, dove sin dall'inizio io e mia moglie siamo stati ben accolti ed integrati. Un'ottima cosa, visto che il trasferimento e i primi periodi di adattamento sono stati per noi veramente come una doccia fredda. Una doccia fredda perché ci siamo trovati proiettati in una realtà completamente diversa un po' dall'oggi al domani. Cioè, il 6 giugno abitavamo ancora a Roma, il 7 giugno eravamo qui a Colonia, uno stato diverso, un mondo diverso, una lingua diversa, eccetera, eccetera. E benché io già conoscessi un po' la realtà tedesca, già conoscessi anche la città in sé, quando si tratta che non sei più qui come turista, assume tutto un altro sapore, un'altra volta, a volte anche altre difficoltà, dalle semplici espressioni, dal semplice riuscire a venirne a capo nei negozi, negli uffici, che non appunto nella vita di tutti i giorni. E più ovviamente cambiano completamente di sana pianta quelle che sono le abitudini, le necessità, la vita in toto. Ovviamente quando si lavora in proprio si sa quando si comincia, ma non quando si finisce, e di lavoro prolungato la sera e a volte durante il fine settimana diventa spesso proprio un anestetico per nascondere gli aspetti della propria vita che non funzionano al meglio. Passano gli anni e il rapporto con mio padre, inizialmente quasi uno sconosciuto, diventa sempre più saldo. Poi nel 2001 nasce la mia unica figlia, Sabrina, e pensavo che la piccola sarebbe stata un ulteriore punto di unione tra me e mia moglie da una parte e mio padre e sua moglie dall'altra. Infatti qui si aggiunge un nuovo elemento di rilevante importanza. Mio padre viveva con lei già da un'infinità di anni, una donna che era praticamente quasi una mia coetanea, senza i figli che aveva desiderato di avere e con le mani ben piantate nel patrimonio dell'azienda di famiglia dove tutti noi eravamo attivi. Come dicevo, mi auguravo che la piccola potesse essere un trait d'union tra di noi, una bambina stupenda, una madre premurosa, io un padre felicissimo, un nonno orgoglioso e... chi lo sa. Ammetto che ho impiegato diverso tempo a rendermi conto che c'era qualcosa che non andava, il cerchio non si chiudeva. Già dopo pochi mesi, in qualche modo l'incantesimo si era rotto e i risentimenti sono venuti a galla, in particolare proprio della moglie di mio padre, che nascosta dietro la figura di suo marito, il principale in azienda, aveva cominciato a fare una sua guerra su diversi fronti, sia con me sia con mia moglie, a base di mobbing e sceneggiate varie per i motivi più svariati e spesso insignificanti. In questa sua guerra personale ha coinvolto anche mio padre, che per me e mia moglie, da alleato, è diventato improvvisamente un nemico. Sono seguiti per me 9 anni d'inferno, tra pressioni al lavoro e maltrattamenti personali inauditi. Ed è stato allora che mi sono reso conto che il mobbing non era qualcosa che riguarda solo gli altri o di cui parlano i giornali, ma mi aveva investito in pieno e ridotto psicologicamente uno straccio. Yeah, social, so you got talk from me. Or you got sidelined by emotions. We can't leave our diplomat behind. You've been holding something back for time. I can't be the only one that knows. I can't make it any less on you. Yeah. Oh, when the willows, things we shouldn't know. Oh, when the willows hit, die, I won't tell you. That's all. That's all. That's all. Yeah, yeah. Silk wings, I should never call these scars. Everything makes me feel weird. I literally just turned 20. I will get nostalgic now. I will put roots in the world, whole universe in your palms. Non era facile trovare una soluzione. In primis proprio perché la casa dove vivevamo era di mio padre. I soldi dello stipendio erano sempre meno e il livello dell'acqua aveva raggiunto abbondantemente ormai la gola. In più io avevo firmato alcuni contratti con la banca per dei finanziamenti per l'azienda senza pensarci troppo, secondo il concetto: se io, che sono tuo padre, ti chiedo di firmare, che fai? Non ti fidi? Contratti che non riuscivo a capire esattamente quali rischi mi potessero portare nel caso fosse andato qualcosa storto tra me e l'azienda. Insomma, non sapevo a che santo votarmi. E qui successe qualcosa che, anche se apparentemente insignificante, avrebbe cambiato radicalmente la mia vita. Un giorno una mia vecchia e provvidenziale zia di Roma mi chiama dicendomi di avere una certa somma di denaro da parte che vuole regalarmi, una sorta di eredità in anticipo, magari proprio per prendere una casetta e staccarmi dalla vicinanza da mio padre. A ripensarci, mia zia forse aveva doti medianiche, perché deve essere riuscita a vedere e a capire la situazione senza per nulla essere al corrente di come andavano veramente le cose. L'unica persona, diciamo, più vicina a me dalla parte di mia madre, poi è stato un personaggio che è sempre stato un po', come dicevo, sulle retrovie, non si è mai esposta molto, non ha sempre fatto una sua vita per fatti propri, senza troppo interagire o poter interagire con il resto del, diciamo, sia della famiglia che del mondo. Per cui questo suo regalo, questo suo pensiero allora mi giunse inaspettato. Comunque, sentendomi forte per avere di nuovo un po' di soldi sul conto, prendo una casetta dove far restare inizialmente mia figlia e mia moglie, tenendole lontane dal campo di battaglia. Questo porta subito a nuovi malumori con mio padre e con sua moglie soprattutto, ma porta, principalmente me, ad avere di nuovo la forza e la capacità di organizzarmi, lasciare l'azienda di famiglia per poter cominciare qualcosa di nuovo, senza lavoro e senza soldi, ma con la tranquillità e la determinazione di volere ricominciare da zero e da solo. In quel momento ho capito che non avrei dovuto cercare semplicemente un lavoro, ma un'occasione di reddito, dove avrei potuto divertirmi ed essere felice. Ho sostituito la frase «vado a lavorare» con «vado a giocare», che può sembrare solo una diversa formulazione, ma che invece imprime un forte cambiamento nella mia mente. Tutto quello che è accaduto dopo suona come una favola. Mi sono realizzato in ambienti professionali dove non avrei mai creduto di poter entrare. Ho cambiato il mio stato da sposato a felicemente separato. Ma soprattutto sono riuscito a costruire un rapporto meraviglioso con mia figlia, oggi quasi 19enne, oltre ad avere mantenuto uno splendido legame con sua madre, mia ex moglie. A ripensarci oggi, il gesto di quella mia vecchia zia è stato come un battito d'ali di farfalla a Roma che ha creato un uragano qui da me, in Germania. Probabilmente senza il quale non so se e quando sarei riuscito a trovare la forza, il modo e la maniera per uscire da una situazione che mi stava stretta e che non augurerei neanche al mio peggior nemico, e a rifarmi una vita esattamente come piace a me. Se ripenso a quante ne ho passate in quegli anni, mi stupisco di essere riuscito a sintetizzare in tutto in così poco spazio. Inoltre spero che questo succo concentrato di esperienza sia per voi interessante e che magari, guardando lontano, sia utile per qualcuno che vive in situazioni di melma come quella in cui mi ero trovato anch'io. puntata di oggi si intitola Da qui all'eredità, che è un titolo, diciamo, buffo, nel senso che noi quando l'abbiamo dato eravamo felicissimi del titolo che avevamo trovato, e ha una ragione ben precisa. La ragione sta nella storia che vi racconteremo tra poco, ma soprattutto nella storia che ci ha raccontato Silvio, in cui una piccola eredità di fatto gli dà una svolta totale alla vita. Pronto, ciao Silvio, buongiorno. Ciao, buongiorno Matteo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ti trovi in Germania, giusto Silvio, in questo momento? Esatto, io mi trovo in Germania in questo momento, mi ci trovo direttamente tutto l'anno perché abito a in Germania, a Colonia per l'esattezza, già da circa 28 anni. Ah, vabbè, sei tedesco quindi. Beh, insomma, non esagerare adesso. Com'è vivere a Colonia? Io trovo che sia facile da una parte e piacevole dall'altra. Come dicono i colonesi, che è la città italiana più a nord Europa, perché è una città dove c'è uno spirito della gente molto molto aperto, molto simpatico, molto cordiale. Tu che cosa fai adesso? Mi occupo di diverse cose. Una delle cose di cui mi occupo è di caffè. Cioè, io ho sempre amato il caffè, sempre bevuto caffè, e quando è stato il momento di dire boh, adesso cosa voglio fare, come riorganizzo la mia vita, che cos'è che a me piace veramente tanto, cos'è che amo? Il caffè. E allora da lì mi sono inventato da avere un bar su un caffè mobile, come lo chiamano qui, diciamo, un bar su ruote. E mi piace, mi diverte perché mi metto in contatto con tantissime persone e poi, ripeto, ho a che fare con il caffè. Senti Silvio, veniamo alla storia perché ho un po' di cose da chiederti. La prima cosa è se è ancora in vita, come sta la zia? No, mia zia non è più in vita, penso che sia bene. E comunque è stato sì, una fra virgolette delle ultime cose che ha fatto e che personalmente non mi aspettavo, mi ha un po' colpito come situazione, perché tra l'altro tu dici come se lei l'avesse sentito, l'avesse percepito, perché non sapeva nulla di quello che stava accadendo. Beh, sapeva più o meno che la situazione la mia situazione non era fra le migliori dal punto di vista professionale, lavorativo, guadagni pochi, eccetera eccetera. Però molte altre situazioni le avevo tenute un po' sotto coperta per non dare troppe preoccupazioni. Silvio, senti, la stessa domanda sulla zia la farei anche su tuo padre. Se è ancora in vita, come sono i rapporti? Sì, no, è ancora in vita, sta bene per quel che ne so io. Noi fra di noi non abbiamo contatti, però voglio dire, sono le situazioni che a volte vanno in un certo modo, a volte non sempre secondo la norma, ma bisogna prendere per quello che sono. Non hai dei rancori o dei sentimenti di rivalsa nei suoi confronti? No, non ho rancori per nessuno, perché sono uscito da questa situazione in cui ero psicologicamente molto martellato, ne sono uscito bene, e ripeto, è stata una reazione a catena, perché uscendo di casa, trovando una casa dove andare, dove portare l'allora mia moglie e mia figlia, poter ricominciare la mia vita diciamo dall'inizio, da zero perlomeno, certo. Inventarmi un lavoro, inventarmi nel vero senso della parola, perché cominciare a fare qualcosa che non avevo mai fatto prima, vedere in qualche modo di sbarcare il lunario, mi ha dato talmente tante possibilità che, ripeto, io ora posso dire che nel mio piccolo, se non altro, sono felice. Senti, l'ultima cosa e poi ti lascio, so che invece sei in ottimi rapporti con la tua ex moglie, e tua figlia come sta? Ah, mia figlia è meravigliosa, però questo non è una cosa ovvia. Sta benissimo, mia figlia con la mia ex moglie abitano a 250 metri da casa mia. Abbiamo un ottimo rapporto, ora molto meglio di prima. E mia figlia, col fatto che abitiamo qui vicino, mangia a casa della mamma, poi viene a prendere il caffè da me, poi ritorna lì a prendere, che magari si è dimenticato il maglione, poi ritorna da me a... Silvio, io ti ringrazio perché, come dici tu nella tua storia, questa storia è una storia che parla di mobbing, ma parla molto di molto alto, parla di famiglia, parla di rapporti, e visto che sono sempre storie, non sempre, però spesso sono storie che non finiscono bene, sentire invece come vivi adesso e il tono e la leggerezza che hai adesso è davvero un toccasana, credo, per chiunque stia passando o abbia passato una situazione come la tua, per cui ti ringrazio due volte e ti auguro ogni bene, Silvio, grazie mille. Ringrazio te. Spero di poter dare questa energia positiva a tutti. Sicuramente. Ciao Silvio, grazie, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Grazie davvero a Silvio, grazie per la sua storia, grazie per la telefonata che ha fatto con noi. So che questo tema è un tema davvero vastissimo, di cui spesso si fa fatica a parlare. Parlo del mobbing al lavoro, parlo del mobbing qua ancora peggio, perché si parla di lavoro e famiglia. Se avete voglia di mandarci la vostra storia, se pensate che possa essere d'aiuto liberatorio e se pensate che magari possa servire, appunto, come dice Silvio, a qualcuno là fuori che vive la stessa situazione, beh, siamo felici di raccontarla. Queste sono proprio quelle linee d'ombra, in questo caso una piccola eredità che arriva all'improvviso, è una linea d'ombra inaspettata che viene valicata e veramente regala una nuova vita, e magari, chi lo sa, che raccontando quella storia che state vivendo, che avete vissuto, possa davvero rappresentare il racconto stesso un confine che varcate e magari da cui riuscite a liberarvi. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare una storia qui a Linee d'Ombra. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Linee d'Ombra. Nella prossima storia che vi stiamo per raccontare sembra veramente di essere catapultati nelle Tre Sorelle di Chekhov. Ci sono tutti gli ingredienti. Ci sono i militari che si spostano da un luogo all'altro, c'è un distretto di confine, ci sono delle giovani donne e delle case accoglienti dove si passa il tempo tutti insieme. Questa però è la storia di Francesco Marchio, che nasce a Fiume nella seconda metà dell'Ottocento e poi da adulto si mette a fare il falegname. Ma il suo è un matrimonio infelice, per questo è quasi contento quando nel 1914 lo costringono ad arruolarsi nell'esercito austriaco. Va in guerra e, passando tra fuoco e fiamme attraverso tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, si ammala, si indebolisce sempre più, finché nel corso di un combattimento decide di consegnarsi ai russi, che dopo un anno di lavoro nei campi di prigionia lo spediscono a Vladivostok. Ma è il 1917, è l'anno della rivoluzione d'ottobre. In Russia si parla di bolscevismo e di Lenin, gli stranieri non sono ben visti, e Marchio scappa in Cina, dove si mette a fabbricare mandolini e a cantare in un coro di prigionieri italiani. Poi, per tornare in Europa, si arruola nelle truppe zariste, ma in Russia si innamora di Sofia, una giovane russa che spera di essere portata da lui in Italia. Questa storia, la storia di Francesco Marchio, l'abbiamo letta nell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, che ringraziamo come sempre per darci questa possibilità ogni tanto di frugare tra i diari e potervi proporre queste storie bellissime. In questa puntata che si intitola Da qui all'eredità, la seconda storia è proprio quella di Francesco Marchio e parte esattamente da qua. State con noi. Io all'epoca ero della compagnia di Stato Maggiore, reparto zappatori, come professionista. Non facevo mai servizio, ero libero tutte le sere. Subito, la seconda sera, sortivo con un collega e passeggiando incontriamo un prigioniero italiano che partiva da quella città la sera stessa. «Dove andate, amici?» ci domandava, che, fra parentesi, il termometro segnava 38 sotto lo zero. «In cerca di fortuna o di felicità», rispondemmo noi. «Tu che sei stato molto tempo in questa città potrai darci qualche spunto, qualche direzione», gli diciamo. «Se non volete altro, figuratevi, andiamo più in là, vi mostrerò una casa dove passai i miei giorni di gloria», ci dice lui. Sono due sorelle. Una, però, non so se vi piacerà, è piuttosto anziana, ma non è brutta. Però hanno anche tante amiche. Adesso che siamo arrivati alla casa, bisognava trovare il motivo per potersi introdurre. «Io», dice lui, «dovrei andare a salutarle, però non vado. Vi faccio un biglietto, fatelo voi. Scrivete che, dovendo partire immediatamente e non potendo andare in persona, mando questo biglietto». E così, l'indomani, abbiamo fatto. Quella sera, a un certo punto, la porta si apre, si presenta una vecchia e con una maniera poco lusinghiera ci chiede «Cosa volete?». «Scusi, non abita qui la signora Ida?», domandiamo. Lei ci risponde in un modo che non abbiamo capito se ci abitava o non ci abitava. ha chiuso la porta e noi siamo rimasti di fuori con la sensazione di chi resta sconfitto. Ma non eravamo nemmeno a metà del cortile per uscire che sentiamo: signori, desideravano qualche cosa? Ho udito tutto, non badate a quella vecchia strega, me ne va sempre di queste, accomodatevi, sedetevi. Ed eccoci nella camera. La signorina Ida legge il biglietto che le diamo, lo passa alla sorella, poi si scambiano alcune parole e ridono. Adesso berremo il tè, ci dice. Anzi, raccontateci qualche cosa, ci farà molto piacere. Le signore, comincio io, sono amanti della musica? Io suono qualche strumento, la chitarra, il mandolino, e so anche cantare, ma ho poca voce. In quel momento si sente battere le lastre. Siccome noi eravamo soldati stranieri, istintivamente abbiamo fatto segno di inquietudine, ma in vero era una loro amica di nome Sofia. Appena entrata ha guardato subito noi due, i soldati italiani, e fatta la conoscenza si beve il tè. Intanto, fra una domanda e l'altra, era venuto il momento della ritirata. «Signorina, dobbiamo andare», dissi a Sofia. «Signorina, avrò molto piacere se potrò accompagnarla», le dissi. «Sì, ma ci lasceremo prima di arrivare alla mia casa, perché non voglio essere veduta», mi ha risposto lei. «Sapete, non sono signorina, sono signora». A breve distanza dalla casa della signora Sofia ci siamo salutati, raccomandandole di venire l'indomani sera. L'indomani sera, provvisti di cognac, cioccolata e paste, nonché della chitarra, ci muovevamo alla volta di quella casa. Cantammo in russo e in italiano quella sera, e la terza sera lo stesso, e la quarta, e ogni sera, ogni domenica, stringendo un'amicizia che poi divenne molto intima. Un giorno dissi alla signora Sofia: «Quando avrò il piacere di accompagnarla fino a casa sua, fino alla sua camera, quando?» «Quando sarò completamente libera di mio marito», mi rispose lei. «Dopo non solo potrai accompagnarmi, ma anche dormirci». Era la vigilia di Natale del 1918. Come al solito eravamo in casa della signora Ida. A un certo punto la solita battuta nelle lastre e entra la signora Sofia, tutta contraffatta, piena di lacrime. Io le muovo incontro e lei mi dice: «È andato», gettandomi le braccia al collo. The girl was born the spring of 44 and never saw his father. Mi dice che il marito è un maggiore del ministero dei controrivoluzionari ed è stato trasferito a Homs, ma lei preferisce vivere solo, qua, mantenendosi da sarta. «I miei genitori sono in America», mi dice. «Una sorella a Kiev e un fratello ufficiale dell'Armata Rossa, ma io non voglio seguirli. Vengo con te in Italia. Mi vuoi?» «Io vorrei, ma non posso», le dico. «Non è uno scherzo. E poi io sono ammogliato in Italia, lo sai». «Non fa niente», mi dice lei. «Io lavorerò e mi manterrò da sola. Mi contenterò se verrai a trovarmi di quando in quando». Io la consolo, ma mi piange il cuore perché so dall'inizio che la sua venuta in Italia è impossibile. Vissi con lei quasi un anno in Russia, tutte le ore libere, ogni sera fino a mezzanotte, poi venivo alla sera e tornavo la mattina in caserma. Una sera trovai in casa sua una signorina, bella, alta, una vera madama, una figura rara. Feci la sua conoscenza e dopo una farragine di domande mi presi la libertà di domandarle quale era la sua posizione e mi rispose senza rimpianto: «Io sono una milionaria, avevo molti terreni, ero proprietaria di un'ottantina di contadini, ma con la prima ondata di bolscevismo ho perduto tutto e di più e mi hanno ucciso il marito. Però ho la coscienza tranquilla perché i miei contadini li trattavo come uomini», mi disse. Così passarono i mesi. Alla domenica si andava al bosco, oltre il fiume, con la barca. Io, la signora Sofia, le sue amiche e i mariti, ben forniti di vari cibi, e lì si stava fino alla sera, un po' parlando, un po' si scorazzava con la bicicletta, un po' giocando, proprio come i ragazzi, e a notte si tornava a casa. Un bel giorno la mia amica Sofia partiva per Homs per vedere i suoi bimbi. 8 giorni dopo tornava, ma io nel mentre ero già partito per la Cina, per poi proseguire verso l'Italia. Il momento di partire era arrivato. Qualche cosa avevo imparato in quei 3 anni in Russia. Il cuore però rimpiange ancora quei giorni da soldato. Apre la strada, la vita e l'amore. Chiude la strada, la morte e il dolore. Limpida l'aria, la palma è tranquilla. Il fiume scorre. La luna non vede che polvere e stelle, l'alba non sente l'angoscia di noi piccoli soldati, piccoli armati, dal coraggio d'ordinanze, dalla noia, dalla gloria, dal rancio, dagli eroi e dalle lettere d'amore. La casa ci separa, ci avvelena. Nessuno tornerà più come prima. Grazie ancora all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano per averci regalato la storia di Francesco Marchio, dei suoi anni, della sua stagione in Russia e di questa ereditiera russa che gli si avvicina, di questa donna di cui lui si innamora, di cui si innamorano a vicenda, e di un'eredità che forse lui stesso non voleva concedere a nessuno. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui al... Dall'emergenza Covid al sultano Erdogan, dalla guerra in Libia alla crisi siriana, dallo zar Putin ai ribelli di Hong Kong, immigrazione, politica internazionale, economia, conflitti. Ogni giorno ruotiamo il mappamondo e puntiamo il dito, con storie, analisi, con zoom e grandangolo. Voci dal campo, analisti internazionali e un pizzico di metallo. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 16 con Nessun luogo è lontano, naturalmente qui su Radio 24. Linee d'ombra. Stiamo da ormai 2 settimane imparando a conoscere quel personaggio meraviglioso che è Antonina Zoti. Mauro l'ha contattata, l'ha intervistata, ha parlato con lei lungamente. Abbiamo preso spunto dal libro che lei ha scritto e che ha partecipato appunto al premio Pieve, il premio dell'Archivio Diaristico Nazionale, che si intitola Ad alta voce, ed è la storia di suo padre, della sua famiglia, dell'uccisione di suo padre da parte della mafia nel 1946. Suo padre, falegname e dirigente sindacale che lottava per la distribuzione delle terre, viene ucciso con dei colpi al petto davanti alla porta di casa. Lei ha 4 anni, si ricorda tutto. Antonina cresce, si libera da quello che è il terribile senso di colpa, il terribile senso di oppressione, perché il padre è un morto ammazzato, e a quell'epoca in Sicilia, o comunque nella zona in cui viveva Antonina Zoti e la sua famiglia, era una colpa, era una macchia incredibile, perché l'idea era che se se ne fosse stato zitto, se non avesse fatto nulla, probabilmente tutto questo non sarebbe accaduto e non avrebbe lasciato soli una moglie e 2 figli. Antonina esce allo scoperto, l'abbiamo raccontato all'inizio di questa settimana, durante la manifestazione del 92, dopo la morte di Giovanni Falcone, e da lì in avanti Antonina, che oggi è una maestra in pensione e che si occupa di progetti di educazione alla legalità, tra le altre cose ha contribuito alla nascita dell'associazione Non Solo Portella, che unisce tutte le famiglie dei morti nella strage di Portella della Ginestra. Ebbene, Antonina ci ha raccontato questa storia. È una storia che va avanti e indietro nel tempo. Nell'episodio di oggi c'è il racconto di una situazione che è davvero intima e molto toccante, e riguarda come manteniamo la memoria delle persone che non ci sono più. Questo riguarda la madre di Antonina, che si trova giovane con 2 figli e con un marito morto ammazzato, un marito chiamava febbrilmente, e del quale mantiene un ricordo che è a tutti gli effetti una sindone, è il lenzuolo in cui lui era stato avvolto. Ce lo racconta molto bene Antonina in questo episodio della nostra storia seriale, e quindi la parola la lasciamo direttamente a lei. Penso che la mamma, che era di costituzione normalissima, si ridusse a pesare 38 kg. E per noi era un dolore enorme vederla piangere. Lei non poteva fare altro che piangere. Sì, se ne stava, quando c'eravamo noi cercava di controllarsi, ma noi sapevamo che lei, se la lasciavamo solo, la prima cosa che faceva era quello di piangere, di sfogarsi. E noi piangevamo appresso a lei. I nostri cuori si sconquassava, e quando invece la vedevo un pochino più sereno, quando abbozzava qualche sorriso, io ero la bambina più felice di questo mondo. Più di una volta io l'ho sorpresa mentre davanti all'immagine del cuore di Gesù, un quadro che tenevamo a casa, lei in lacrime, forse pensava non vista, non sentita da me, dicevo: cuore di Gesù, ma perché un maricudio, un semolo a cola, perché non mi avete preso insieme a lui? Come posso sopravvivere io? La mamma era devastata dal dolore e non c'era di che vivere e sostentarci. La tragedia, in un drammatico crescendo, si manifestava ogni giorno di più in tutta la sua cruda gravità, e la realtà superava l'immaginazione. Era impossibile soddisfare anche le minime necessità. Svuotata di ogni energia, la mamma non aveva la forza per pensare ai problemi quotidiani di sopravvivenza, eppure bisognava mangiare, coprirsi e ripararsi sotto un tetto. Dovemmo lasciare persino la casetta in affitto che avevamo abitato fino alla morte di papà per trasferirci al piano terra in quella che era stata la sua falegnameria. Era uno stanzone gelido dove l'umidità, scorrendo a rivoli, ricopriva di salsedine i muri. Per fare spazio ai nostri letti, mia madre dovette cedere, quasi regalare, l'attrezzatura da lavoro della falegnameria. Lasciò soltanto una cassetta di legno, opera di papà, dove custodì per anni qualche piccolo arnese e pochi oggetti a lui appartenuti. Lo cercavo negli oggetti che mamma aveva gelosamente conservato in una cassetta di legno. Si era disfatta degli abiti di papà, dei vestiti, anche degli attrezzi della falegnameria, eccetera. Però aveva conservato questi piccoli oggetti che erano la sua penna stilografica, che scriveva, aveva l'inchiostro verde, la sua penna stilografica, il porto d'armi, il congedo, gli occhiali, una bussola, l'orologio da taschino d'argento, cose che io adesso tengo in morsa nel mio salone. E io, quando lei appunto non c'era, affondavo le mani in questi oggetti alla ricerca del suo odore. La cosa più preziosa erano le sue fotografie. Lo ritraevano in spiaggia, con gli amici, nelle battute di caccia, quando suonava con la banda musicale. Rimaneva pure il lenzuolo che lo aveva accolto, ferito, quella notte. La mamma lo aveva conservato da subito sotto il materasso, ma io, finché ero piccola, non avevo capito niente. Quando poi diventai più grande, ho visto queste sue manovre. Lei lo tirava fuori, lo spiegava sul letto, lo guardava. Ho visto però che lo faceva quasi di nascosto, quindi non mi sono mai intrufolata o intromessa, però quando lei non c'era, una volta sono andata sotto al materasso, ho tirato fuori questa pezza e mi sono resa conto che si trattava del lenzuolo che quella notte stava sotto il corpo di papà, mentre il suo sangue usciva dalle ferite. Era una macchia molto sbiadita, però io l'ho sempre chiamata la nostra sacra sindone, perché quelle macchie, che erano il sangue di papà, mi dimostravano che papà era stato vivo nella mia vita, c'era stato nella mia vita. Adesso non c'era più, però lui c'era stato nella mia vita, quindi era per me un ricordo prezioso. And have a ball. Grazie ancora ad Antonina Zotti per la storia che ci ha raccontato, grazie a Mauro Pescio che la racconta costantemente, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Mandateci un episodio della vostra vita che abbia a che fare con un confine, con una linea d'ombra, con una linea di passaggio che è stata determinante, che è stata dirimente per la vostra vita. La mandate a lineadombra@radio24.it. Noi continuiamo a raccoglierle, faremo una lunga raccolta durante tutta l'estate di queste storie per cercare di partire il prossimo mese di settembre la nuova stagione con altre nuove storie freschissime da raccontarvi. Ora vi lasciamo al GR, noi torniamo al GR e al weekend, noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, perché raccontare storie rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!